solo un po' tu non mi abbatterai. Nonostante l'invidia che ti mangia, credici ma non ti illudere. Cado giù solamente sulla sabbia, salirò sopra le nuvole, evitando i colpi che la vita infliggerà senza discutere. Tanto bene o male ci sei tu che mi dai, forse poi non riesco a fare a meno di te. Su di me, su di noi, fino in fondo crederai. Eccoti, dall'universo mi illumini. Hai fatto presto a convincermi. La tua mancanza mi soffoca, per me sei unica. Leggerò come un oracolo tra le righe di ogni tuo movimento, giudico come un miracolo. Ritrovati ogni notte sul mio petto, ballerò ma senza musica, perché dentro smuovi ogni mio senso. Riderò tra le difficoltà, tanto bene o male ci sei tu che mi dai, forse poi non riesco a fare a meno di te. Su di me, su di noi, fino in fondo crederai. Eccoti, dall'universo mi illumini. Hai fatto presto a convincermi. La tua mancanza mi soffoca, per me sei unica. Eccoti, dall'universo mi illumini. Hai fatto presto a convincermi. La tua mancanza mi soffoca, per me sei unica. Dall'universo mi illumini. Hai fatto presto a convincermi. La tua mancanza mi soffoca, per me sei unica. Eccoti, dall'universo mi illumini. Hai fatto presto a convincermi. La tua mancanza mi soffoca, per me sei unica.